Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Chi più spende meglio spende. Me l'hai tolta di bocca, guarda. Dottore Spizzi, sì. Facciamo un invito. Ma che spendere, mica risparmiare. Manager no, no, eh. No, no, non ce la faccio. Diventiamo proprio. Imprenditori? Proviamoci, abbiamo un'idea brillante? Ma ce la facciamo venire. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. La nave è come una nave, ed essendo una nave è abbastanza normale che vada in mare. Il mare, com'è naturale, immobile, piatto, è quasi perfetto, sta lì sempre uguale. Beh, è normale che vada in mare, ma ce n'è una anche nel pieno centro di Milano. Nicoletta, l'hai vista? Sì, Deborah, l'ho vista. Intanto ciao e bentornata. Grazie. Ecco, però, anche se sì. Sei a Roma, sì. Sento già la tua mancanza, però non allarghiamoci troppo, non è proprio una nave, diciamo che è un pezzo di nave. Dai. Anche perché tutta sarebbe stata un po' ingombrante per Piazza Cordusio, un allestimento scenografico molto imponente, quello di cui stiamo parlando, come se una nave uscisse da Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, un'installazione che è costata 600.000 euro. Il motivo di questo allestimento? L'IPO, ovvero la quotazione in borsa di Fincantieri, il gruppo triestino di cantieristica navale. L'estate 2014 è proprio un'estate che possiamo definire calda per Piazza Affari, Nicoletta, non solo dal punto di vista meteorologico su Milano, abbiamo avuto peraltro un assaggio in questi ultimi giorni di temperature calde, ma un'estate calda per le IPO, precisamente Initial Public Offering, ovvero offerte pubbliche d'acquisto, offerte pubbliche iniziali. Che leggiamo sì, scritte sui giornali sì. Come IPO, Esatto, diciamola ecco. All'italiano, non facciamo questa cosa controcorrente. Ecco, che sta per offerta pubblica iniziale. Iniziale. Mm. Sono tante le quotazioni di rilievo, un buon segno per la nostra borsa perché vuol dire che ha intanto rialzato la testa e sta andando molto bene dall'inizio dell'anno e torna a far sentire, se possiamo chiamarlo così, il suo fascino. Sempre più società scelgono con la quotazione sostanzialmente un finanziamento che non è di carattere bancario per dare liquidità al proprio business. Allora, oltre a Fincantieri, e hai visto Nicoletta che c'è quest'oggi un grande spazio sul Sole 24 Ore dedicato a questo argomento? Sì, molto chiaro, bello, con le parole chiave. Esatto, tutte le due prime pagine, praticamente pagina 2 e pagina 3, dedicate a queste operazioni straordinarie. Oltre a Fincantieri, ricordiamo, ci sono sulla rampa di lancio pronte a quotarsi Fineco, Sisal, Cerved, c'è Poste Italiane, forse entro la fine dell'anno, non so se ce la faranno. Allora oggi a Cuore Denari vi spieghiamo come funziona questa procedura. Raccoglieremo anche consigli per chi pensa di investire i propri risparmi in occasione di queste quotazioni, di questi collocamenti. Siete fra questi? Siete interessati a questo argomento? Oppure vi è stato proposto da un consulente di aderire a queste operazioni? 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. E quindi vi aspettiamo, iniziate subito a chiamare o a scriverci al 349 238 6666, mentre nella seconda parte della trasmissione cambiamo decisamente argomento insieme a Deborah e a un nostro esperto. Parleremo di cerotti, gomme e sigarette elettroniche a base di nicotina, a cui molti ricorrono per smettere di fumare. Il loro uso infatti è finalizzato a ridurre gradualmente i sintomi dell'astinenza, di cui secondo le ricerche soffre circa la metà delle persone che smette di fumare. Ma secondo uno studio pubblicato dai ricercatori della Virginia Bioinformatics Institute sulla rivista Oncotarget, questi prodotti, anziché portare benefici, potrebbero essere dannosi per la salute, potrebbero avere un effetto cancerogeno e quindi questo rende il loro utilizzo poco sicuro. Naturalmente vogliamo leggere tra le righe di questa ricerca, vogliamo saperne di più. Avremo con noi il dottor Roberto Boffi, che gli ascoltatori di Cuore Denari conoscono bene, dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Il nostro numero verde è naturalmente vostro a disposizione, sia per l'IPO sia che invece vogliate nella seconda parte della trasmissione parlare di cerotti, gomme da masticare e sostitutivi della nicotina. Se fumate, se svapate, se avete smesso, state smettendo, chiamateci. Io mi quoto in borsa, borsa, anch'io come da. Io mi quoto in borsa, borsa, sì, sì. Io mi Nicoletta, quotiamo in borsa Cuore Denari, che dici? Ma sai che non sarebbe una brutta idea? Chissà se è possibile. Chissà che investitori, tra l'altro, attirerebbe un programma radiofonico. Sai che ti dico? Che io lo chiedo a Raffaele Ierusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana, che salutiamo perché abbiamo il piacere di averlo con noi questa mattina. Buongiorno, dottor Ierusalmi. Buongiorno. Ci proviamo a quotare una trasmissione radiofonica, magari tutta la radio. Sole 24 ore è già quotato, per la verità, per cui infatti, teoricamente noi ci siamo già dentro. Sì. Allora, senta Ierusalmi, volevo fare con lei un commento generale su questa vivacità che sta vivendo in questo periodo la Borsa Italiana, perché tra matricole che stanno debuttando in borsa e anche altre operazioni straordinarie che sono gli aumenti di capitale, il 2014, lo dice anche il Sole 24 ore questa mattina, potrebbe arrivare al record di 10-14 miliardi di risorse appunto raccolte, soprattutto per quello che riguarda le debuttanti in borsa fra tutti i segmenti di mercato. Stiamo praticamente allineandoci al 2007, che è stato un anno record per le società che si sono presentate sul mercato finanziario. È davvero un momento d'oro per voi? Che cosa sta attraendo della Borsa Italiana così tanto gli investitori un po' di tutto il mondo? Ma sicuramente c'è un cambiamento strutturale in atto da parte anche del mondo delle imprese e degli imprenditori in Italia, che sicuramente hanno capito quanto importante sia la borsa per finanziare i progetti di crescita che hanno, le loro ambizioni e la voglia di competere a livello globale. Quindi questo sicuramente è un aspetto che credo sia strutturale e non legato a fattori contingenti. Tornando invece a quello che è, diciamo, l'euforia degli ultimi mesi sul mercato italiano in generale, questa è legata a un ritorno in massa degli investitori esteri che avevano abbandonato il mercato italiano durante la crisi legata all'euro e che sostanzialmente oggi ritrovano convinzione e hanno capito anche che l'Italia è un paese comunque solido e che è riuscito a uscire da questa crisi comunque in modo abbastanza rapido. Quindi credo che questi siano gli elementi. Ovviamente le valutazioni di molte aziende sono molto convenienti e questo aiuta ovviamente ad attrarre investitori. Le valutazioni, lei dice, sono convenienti, anche se ancora, diciamo, i prezzi di collocamento di alcune società non si conoscono, per cui come mai ha dato questo giudizio? Ma diciamo che il ritorno di interesse degli investitori non riguarda soltanto le nuove emissioni, gli aumenti di capitali e le società che stanno andando in quotazione adesso, ma riguarda più in generale tutte le aziende che sono quotate sul nostro mercato. Quindi diciamo che io mi riferivo alle valutazioni delle aziende già quotate. Sulle aziende che ovviamente andranno in quotazione poi sarà ciascun investitore farà le sue valutazioni in quel momento, perché certo, io li conosco i prezzi, quindi non posso fare delle previsioni. Certo. Su questo abbiamo fatto prima un po' la lista delle società almeno più note che stanno concludendo la procedura, diciamo, di collocamento. Ce ne sono due molto importanti. Una è quella che abbiamo citato all'inizio, che è Fincantieri, che va sul mercato il 3 luglio e sarà anticipata il giorno prima da Fineco. Due IPO di due società molto grandi nello stesso momento, dottor Ierusalmi. Questo affollamento non rischia di essere controproducente? Non rischiano un po' di cannibalizzarsi a vicenda? Non so, adesso la provoco chiedendole, non poteva suggerire magari di diluire un po' il momento, oppure lei chiaramente su questo dice non posso fare niente, sono le società che decidono? No, allora il tema è che contrariamente a quello che può pensare la gente in generale o l'osservatore che guarda da lontano il mercato, non c'è mai un problema di affollamento, perché gli investitori investono a prescindere sulla base di quelle che sono le storie, sulla base degli interessi che una società può suscitare o generare per loro, quindi è assolutamente irrilevante. Si possono raccogliere in una settimana 10, 20, 30 o 100 miliardi senza nessun problema. I mercati finanziari sono estremamente liquidi e gli investitori in questo momento hanno un forte appetito a investire, quindi da questo punto di vista l'affollamento non è mai un problema, né in questo momento né in altri. Nicoletta, c'è la, come dire, questione anche di Poste Italiane, no? Sì, che è quella più attesa, no? Sicuramente. Anche perché hanno iniziato a entrare, chiamiamoli pesci, perché abbiamo parlato di nave, i pesci piccoli, e poi stanno iniziando ad arrivare poi quelli, esatto, grossi, almeno in questo secondo semestre. Questa è una grande operazione di privatizzazione che peraltro dottor Ierusalmi doveva finalizzarsi, se non ricordo male, quest'estate, poi è stata rinviata al prossimo inverno e forse dovrà essere procrastinata ancora. Ma guardi, su Poste non posso fare i commenti perché non ho avuto ancora diretti contatti con la società, quindi in questo momento non sarei in grado di dare nessuna valutazione. Certamente è una società che ha cambiato recentemente il suo amministratore delegato, quindi è ovvio che un nuovo amministratore delegato, prima di intraprendere ovviamente questo processo, voglia anche guardarsi intorno e guardare un po' quali sono le condizioni dell'azienda. Certo. Prima di muoversi. Le chiedo solo un ultimo commento, poi la lasciamo. Noi stiamo parlando di quelli che Nicoletta appunto definiva i pesci grossi. In realtà c'è il segmento dell'AIM di Borsa Italiana, che è stato molto vivace e lo è da molti mesi. Sono le piccole società che si quotano naturalmente, e questo sta avendo un grande richiamo, no, dottor Gerusalmi? Quante società si sono quotate negli ultimi tempi? Già dall'inizio dell'anno abbiamo avuto 10 debutti sull'AIM Italia, e sicuramente abbiamo avuto anche l'anno scorso un numero di aziende che si sono quotate significativo. Quindi credo che da questo punto di vista l'AIM Italia stia rispondendo esattamente a quelle che erano un po' le nostre idee quando l'abbiamo lanciato, cioè la possibilità di avere un mercato che offrisse ad aziende più piccole, ovviamente di dimensione inferiore a quelle che poi in genere arrivano sul mercato principale, delle condizioni e delle opportunità, perché anche le aziende più piccole, mi lasci dire, in Italia hanno estremamente bisogno di finanziamenti di medio lungo termine per finanziare, certo, i loro progetti, e non c'era in effetti nessun tipo di offerta per loro. Credo che questo mercato, che è ancora in una fase, diciamo così, di partenza, perché in realtà il mercato è stato lanciato qualche anno fa nel mezzo della crisi, e quindi ovviamente un mercato relativamente giovane per essere un mercato a 5-6 anni di vita, sostanzialmente credo che sia un mercato che possa dare veramente un grosso contributo per le piccole e medie imprese. Insomma, avanti tutta, colgo la palla al balzo sul suggerimento lanciato da un ascoltatore, nonostante la Tobin Tax e l'imminente aumento della tassazione sulle rendite finanziarie. Gerusalmi. Sì, questi sono due aspetti purtroppo critici. Il mercato ha bisogno di certezze, quindi speriamo che questi provvedimenti siano gli ultimi di una serie che è stata piuttosto lunga e che ha colpito in maniera significativa il mercato finanziario, peraltro senza francamente dei veri motivi, secondo me. E in particolare quando si vuole spingere gli investitori a aumentare la componente di investimento verso quello che si chiama l'equity, cioè verso il capitale di rischio, sicuramente aggiungere tasse sul capital gain, aggiungere tasse sulle transazioni finanziarie e aggiungere tasse, mi lasci dire, anche sui conti titoli, perché questa è una cosa che spesso viene dimenticata, ma che ha un effetto ovviamente significativo, non è probabilmente la strada più giusta da intraprendere. Quindi ecco, la mia raccomandazione al governo attuale: facciamo attenzione, perché negli ultimi anni gli aumenti sul settore finanziario a livello di tasse sono stati veramente molto molto significativi. La ringraziamo molto per essere stato con noi e per averci dedicato qualche minuto del suo tempo, perché so che veramente in questo periodo è strattonato tra un impegno e un altro. Grazie Monte. Grazie a voi. Buona giornata. Buongiorno. Grazie a Raffaele Gerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana. Ma Nicoletta, c'è un'altra ospite in carne e ossa, la nostra Valeria Novellini. Ciao, esatto. Valeria. Buona giornata. Ciao Valeria. Analista ufficio studi del Sole 24 Ore. Esatto, una grandissima esperta di queste operazioni appunto della Borsa Italiana. E Nicoletta, possiamo farci spiegare, facciamo finta che non sappiamo nulla di questi argomenti, che non sono assolutamente facili, non è che è molto facile masticare il concetto dell'IPO, come l'abbiamo appunto definito nel suo nome corretto, che è quello in inglese, quindi quando una società decide di quotarsi in borsa. Valeria, per quale motivo lo si fa? Perché Fincantieri dovrebbe andare in borsa? Perché Fineco dovrebbe farlo? Perché le Poste dovrebbero farlo? Forse, anche se per le Poste appunto forse abbiamo una situazione diversa, perché qui c'è una privatizzazione. Valeria. Come hai già anticipato, naturalmente ogni IPO ha una storia a sé, quindi le esigenze sono diverse. Ci sono le società che principalmente vanno in borsa per raccogliere nuovi mezzi finanziari tramite aumento di capitale. Questa motivazione può essere rivolta o a specifici progetti di investimento che intendono fare e per cui hanno bisogno di mezzi finanziari, oppure può essere rivolta al fatto di migliorare la struttura dell'indebitamento, rimborsando una parte dell'indebitamento, eventualmente se questo indebitamento è alto o è piuttosto oneroso. Oppure un'esigenza per andare in borsa può essere a volte non tanto della società stessa che si quota, ma bensì del venditore, vale a dire solitamente della società controllante o che a volte può essere un fondo di investimento, il quale decide di vendere sul mercato una parte delle azioni di questa società controllata per poter monetizzare almeno in parte l'investimento. E infine abbiamo le privatizzazioni, di cui in realtà la motivazione è abbastanza analoga all'ultima che abbiamo detto, solo che in questo caso l'incasso è dello Stato. Diciamo subito che per Poste si potrà parlare principalmente proprio di questo tipo di operazioni. Per Fincantieri l'operazione è mista, perché in parte si tratta di un aumento di capitale che quindi viene incassato dalla società stessa, e in parte invece, piccola però, si tratta della vendita di azioni da parte di Fintecna, e solo questo incasso andrà nelle casse dello Stato. Allora, io direi, Nicoletta, se sei d'accordo, intanto di richiamare un po' gli ascoltatori, qualora fossero interessati a questi argomenti, ad intervenire. Naturalmente che potete chiamare l'800240024, scrivere al 349-238-6666 e noi siamo a vostra disposizione per cercare di capire di più di questi temi che tu dici non sono, no, molto, non sono immediati, di facile comprensione, esatto. Però conviene vederci un pochino più chiaro, no? Esatto, capire. Direi allora, guarda, proprio a proposito di ABC, di fare intanto una carrellata dei vari casi. Abbiamo citato per ultima la situazione di Poste Italiane che si privatizza, ma siccome questa praticamente slitta di operazione, a quanto abbiamo capito, al 2015, andiamo a quelle più imminenti. Sì. Valeria, quali sono le operazioni più importanti? Noi abbiamo citato le due più grandi in termini di dimensioni, Fineco e Fincantieri, due società che operano in comparti radicalmente diversi. Allora, per quanto riguarda Fineco, ovviamente non è una privatizzazione, ma è una vendita di azioni esistenti da parte della controllante Unicredit, che già da tempo l'aveva dichiarato per rafforzare il proprio capitale. Fineco di fatto non ha bisogno di ulteriore rafforzamento del suo capitale, quindi alla fine non è particolarmente rilevante che in questo caso non ci sia un aumento di capitale, e inoltre ha già dichiarato il management che proprio per la buona situazione dei conti potrà comunque permettersi di continuare a distribuire dividendi anche nei prossimi anni agli azionisti. Fineco, e si quota il 2 luglio. Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici navali d'Europa, quindi è veramente un fiore all'occhiello del nostro paese. In particolare leader nel settore delle navi da crociera e anche nelle navi militari, oltre ad altri settori di servizi all'industria navale. In questo caso, come ho detto, una parte relativamente minore viene incassata da Fintecna, che è la società statale, mentre la rimanente parte, che è la grossa ammontare, sono circa 600 milioni, andrà in tasca Fincantieri, che la utilizzerà per il suo ulteriore sviluppo di investimenti, che può essere fatto sia per linee interne sia anche eventualmente se trovano un'opportunità tramite acquisizioni. Cerved invece che cosa fa? Cerved perché quella? No, lei non è dovuto a cosa fa, è dovuto al fatto che la società è una società di credit information, quindi in sostanza servizio di raccolta di database per esatto. Quindi se non paghiamo un debito finiamo in questo ad essere profilati qua dentro? Sì, ovviamente esatto, sì, CRIF è la seconda il secondo competitor sul mercato. Ottimo. Il leader di mercato è Cerved, che ha una quota molto superiore comunque a quella di CRIF, è proprio il leader assoluto del mercato del credit information. No, il sospiro non era dovuto a quello che fa, la società è sana, va benissimo. Il problema è che l'operazione si conclude oggi e che proprio nei minuti scorsi è stato comunicato da fonte Reuters che indicativamente la forchetta del prezzo di collocamento è stata ridotta da quella precedente, che era da 5 a 6,5 euro, e invece sarà tra 5 e 5,25 euro. Quindi e quando la società decide appunto una cosa del genere, che cosa vuol dire? Vuol dire che la copertura dell'offerta viene garantita soltanto sui livelli minimi della forchetta, il che non è diciamo necessariamente negativo, ovviamente vuol dire che l'interesse c'è se comunque l'offerta viene coperta, però vuol dire dire che il mercato in questo momento, comunque, nonostante l'interesse per la raccolta dei capitali, si focalizza anche sulla convenienza del prezzo. Nicoletta, ti è venuta voglia di aderire ad una di queste IPO? Sì, io vorrei soprattutto anche poi che Valeria ci spiegasse come valutare e scoprire se dietro l'IPO ci sono insidie, no? Perché per un risparmiatore. Come valutarle? Certo, allora la valutazione chiaramente non è semplicissima e teniamo presente che queste società sono tutti modelli di business alquanto complicati, quindi difficili da valutare anche per una persona che fa il mio mestiere. Per quanto riguarda il piccolo investitore, direi che la prima cosa da guardare è appunto le diverse motivazioni per i quali vengono fatte queste operazioni, queste raccolte di capitali, cioè chi vende, se la società raccoglie mezzi finanziari e a che cosa sono finalizzati questi mezzi finanziari. Poi occorre anche focalizzarsi sull'eventuale politica dei dividendi, se si è interessati a questo. Spesso i piccoli investitori lo sono, mentre Fineco ha già comunicato che comunque ci sarà un pagamento di dividendi. Fincantieri ha già detto per i prossimi 3 anni niente di quello, è quello che ci scrive infatti un ascoltatore, che ci dice che se per 3 anni non darà dividendo, prevede questo ascoltatore che non si firma, un calo iniziale, perciò lui suggerisce che sia meglio aspettare. Cuore e denari. Guardo pigramente le spire profumate, lo vedi? Fumo a piccole boccate. Vorrei fermare un poco questa punta di fuoco. Vorrei fermare il tempo, ma il tempo passa e va. Sono più di 4.000 le sostanze contenute in una sigaretta. Noi oggi però, nella seconda parte della trasmissione, prenderemo in esame solo una di loro. Parleremo di nicotina, responsabile di quella dipendenza fisica che chi fuma, chi ha smesso, sta cercando di farlo, conosce bene. Il meccanismo con cui ci tiene legati è molto semplice. Fumando, la nicotina raggiunge molto rapidamente il cervello, stimola i recettori presenti sulla superficie delle cellule nervose e induce la liberazione di dopamina e adrenalina, le conosciamo bene, sono i neurotrasmettitori associati alle sensazioni di piacere ma anche a euforia e benessere. Subito dopo il primo tiro però la concentrazione di nicotina boom crolla, i recettori ormai moltiplicati restano, come si dice, a bocca asciutta e il bisogno di un'ulteriore boccata e dose aumenta. Per questa ragione chi smette di fumare spesso ricorre, quando non ce la fa da solo, alla terapia sostitutiva, che ha il vantaggio, proprio attraverso questa somministrazione di quantità prestabilite di nicotina, di ridurre o contrastare la sindrome di astinenza. Ma uno studio americano mette in dubbio la sicurezza di questi prodotti, che seppur abbiano dei dosaggi inferiori rispetto a quelli ispirati con la sigaretta, non sembrano essere esenti dai rischi per la salute. Ne parleremo insieme al dottor Boffi e a Deborah, naturalmente, a partire dalle 11.50. Se volete iniziare a chiamarci, 800 24 0024 sarà anche un'occasione per fare il punto su perché conviene sempre smettere o provare a farlo, e se ci siete riusciti raccontateci come avete fatto. Intanto noi naturalmente continuiamo a parlare insieme alla nostra esperta di oggi, a Valeria Novellini, e a Deborah, che sta a Roma, di IPO. La mia fidanzata milanese non è donna di pretese, pensa sempre al cia-cia-cia. Non le importa niente dei milioni, vuole solo buone azioni della borsa di Milano. Infatti noi torniamo ancora per qualche minuto alla nostra borsa. Cosa avevi da dire, Nicoletta? No, sai perché? Perché noi quando stiamo in studio insieme a Valeria e sentiamo queste canzoni, le commentiamo perché lei è appassionata, lei canta e ha avuto come maestro un amico anche di Cuore Denari, perché Andrea degli Alti e Bassi, che è già intervenuto, e sono questo gruppo a cappella, vero Valeria, si dice così, che salutiamo. Esatto, ciao Andrea, ciao a tutti gli Alti e Bassi. Bene. Benissimo. Hai quindi, visto? Anche vedi? Valeria è proprio la nostra donna di cuore e denari. È perfetta perché è canta perfetta. Anche. Esatto, è anche molto brava. Allora, noi approfittiamo della presenza di Valeria Novellini, appunto analista dell'Ufficio Studi del Sole 24 Ore, analista finanziario, per parlare di questo fermento che c'è in borsa italiana, non per parlare, Nicoletta, delle multinazionali del tabacco quotate, certo. Ce ne sono alcune, e tra l'altro vanno anche molto bene perché approfittano dei trend di forte crescita dei mercati emergenti. Noi invece parliamo della borsa italiana, non perché per fortuna, almeno una volta tanto, sia instabile in questo periodo, ma perché festeggia un periodo invece molto vivace. Stiamo parlando, come Nicoletta anticipava, delle IPO, le offerte pubbliche iniziali, tante le società che hanno debuttato in borsa, che lo stanno facendo in questo periodo, e noi stiamo cercando di capire come si fa ad aderire a queste operazioni qualora abbiamo di fronte appunto un risparmiatore e un piccolo investitore interessato, ma naturalmente vorremmo dare soprattutto un aiuto concreto, pratico a chi su questi temi appunto ha qualche difficoltà di navigazione. E infatti prendiamo a spunto subito la domanda di Luca da Verona. Che ne dici, Nico? Assolutamente, buongiorno Luca, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Eccoci. Sì, io volevo capire come si forma, come viene determinata la forchetta di prezzo e come poi si forma il prezzo finale di quotazione di un titolo. Luca, grazie, domanda assolutamente pertinente. Allora, Valeria, qua ti devi cimentare. Nella spiegazione molto semplice appunto per l'ascoltatore. Dunque, in sostanza la forchetta di prezzo viene determinata dalle banche collocatrici insieme con la società, che effettuano una valutazione della società stessa, e può essere valutata sia calcolando le stime sui futuri risultati della società, ossia anche confrontandola con società simili già quotate presso altre borse o anche presso la borsa italiana, se ce ne sono. È come se si facesse, scusami Valeria se ti interrompo un po', una valutazione chiaramente complessiva della società, e poi si spezzetta questo valore in singole azioni praticamente, no? Esatto, si calcola una valutazione complessiva e poi dopo naturalmente si suddivide questo valore per il numero delle azioni e si trova la forchetta di prezzo unitario che viene individuata, e a questo punto questa forchetta viene proposta. Solitamente il livello massimo adesso come adesso è vincolante, nel senso che non si può andare oltre, mentre il livello minimo non è vincolante, nel senso che eventualmente la società potrebbe anche decidere di ridurre il livello di prezzo al di sotto del minimo. Allora, c'è un altro ascoltatore che fa un'osservazione molto intelligente e dice che per valutare una società è fondamentale vedere anche le persone che guidano queste aziende, e poi dice anche che stile di vita conducono, chissà se fumano. Chissà se fumano, magari... se hanno usato i cerotti per smettere l'agopuntura oppure se l'hanno spenta e basta. Però la leadership, il management, no, Valeria, è sicuramente molto importante. Un altro aspetto che sicuramente da parte degli investitori internazionali interessati alle IPO è un aspetto che viene tenuto in considerazione, la qualità del manager. Certamente viene tenuto in conto, tanto è vero che quasi sempre le società, se possono puntare su questa caratteristica, lo indicano anche nel prospetto informativo, cioè indicano che i manager hanno una specifica esperienza in quel settore o addirittura in quella stessa società, sono presenti da un certo periodo di tempo e quindi conoscono bene l'attività che stanno sviluppando e che quindi sono affidabili anche per il futuro. Certo. Valeria, in occasione di una IPO, anche per le azioni, possiamo parlare quindi di mercato primario e mercato secondario, come facciamo quando parliamo appunto di un'asta di titoli di Stato o dell'acquisto di titoli di Stato in un secondo momento dopo le aste. Sì, diciamo che il mercato primario è essenzialmente proprio questo delle IPO, nel senso che sono società che si presentano al mercato per la prima volta e che quindi non è possibile in precedenza trovare in quotazione, mentre invece quando a loro volta hanno già ottenuto l'ammissione in borsa, da quel momento diventa poi un mercato secondario perché si possono acquistare le azioni già emesse e presenti sul mercato. Nicoletta, volevo segnalare che c'è un ascoltatore che si è accorto che non sto tanto bene. Perché è lontano dalla donna di cuore, si ammala. Questo è vero. Le viene però, subito, insomma, il raffreddore. Complimenti io non mi per la sensibilità. Di lei. per la sensibilità che l'ha percepito. Ottimo, volevi chiedere qualcosa a Valeria? Volevo chiedere a Valeria, perché noi siamo partiti, no, con raccontando di questa installazione scenografica di centinaia di migliaia di euro come quella di Piazza Affari, no? Sì. Però che volevo chiedere a Valeria se ci sono anche dei costi e dei rischi per la società. Beh, i costi ci sono anche significativi perché vengono indicati, attenzione, in tutti i prospetti informativi. In primo luogo ci sono le commissioni che percepisce il consorzio di collocamento e garanzia, a cui viene retrocessa una percentuale del controvalore del collocamento, che indicativamente di questi tempi è compresa tra il 2 e il 3%. Parlo di queste operazioni ultime più grosse, ci sono stati dei periodi in cui erano anche molto più alte, perché essendo più rischioso il periodo, le banche chiedevano una percentuale più elevata. Poi ci sono le commissioni, i costi vivi di pubblicità. Ogni società qui sceglie se farne tanta, poca, eccetera. E naturalmente i costi per consulenze, per esempio, legali. Infatti. E quindi, insomma, anche questo procedimento per la società ha i suoi costi. Cuore e denari. E direi, Nicoletta, di concludere questa parte dedicata alle società che si stanno quotando in borsa. Un grande fermento per quello che riguarda Piazza Affari. Magari facciamo fare un ultimo monitoraggio a Valeria Novellini sulle operazioni recenti che hanno avuto successo. Quali società hanno debuttato negli ultimi mesi che hanno avuto una buona risposta dal mercato, Valeria? Allora, di operazioni significative quest'anno c'è stata principalmente Anima Holding sul mercato principale, che ha avuto un buon riscontro, è stata regolarmente sottoscritta e poi già dai primi giorni di mercato è comunque rimasta al di sopra dei prezzi di collocamento. Comunque è un settore, quello del risparmio gestito, che in questo periodo Fineco vuole cavalcare anche questa tendenza. Sì, anche se, attenzione, non è risparmio gestito, banca diretta multicanale, però comunque sempre nell'ambito finanziario. Esatto. Poi ci sono state 9 società ammesse all'AIM, però diciamo che è un mercato più per investitori scafati, non tanto per i piccoli risparmiatori, quindi per una utenza scafati. Più mi piace quello scafato. Esatto, più professionale, perché essendo ovviamente meno liquido e generalmente costituito da società più piccole, è anche più difficile reperire informazioni e minori sono le contrattazioni. Cosa vuol dire quando dici che è meno liquido? Che ci sono volumi di scambi molto più bassi rispetto a quello delle società quotate sul mercato. Per esempio, se io sono un investitore in una società quotata su questo segmento, magari se voglio domattina vendere il mio titolo non trovo immediatamente farò più il compratore. Fatica, sì, certamente. Poi non è detto, però in media dovrebbe essere così. Per quanto riguarda le prossime operazioni, allora, oltre a quelle già dette, quella immediatamente successiva dovrebbe essere Rotta Farm, una novità quasi assoluta, perché il settore farmaceutico era da tempo assente da Piazza Affari, quindi questa è una vera... Hai visto che anche alla borsa è di cuore denari, Nicoletta. Hai visto? e questa società praticamente si collocherà in borsa tramite sia vendita ma soprattutto aumento di capitale, soprattutto ai fini di rafforzamento della posizione finanziaria. C'è per poi Sisal. Sisal, ecco, su Sisal c'è ancora incertezza sui tempi, perché originariamente avevano detto che sarebbe stata dopo l'estate, adesso pare che forse vogliano anticiparla proprio a metà luglio addirittura. Insomma, teniamo quindi un po' prima sotto delle controllo. Vacanze. Quindi queste sono quelle da tenere sotto controllo, Valeria. Esatto, queste. Poi successivamente nella seconda parte dell'anno sono attese delle IPO molto interessanti, oltre a Poste, che vabbè, è noto l'appeal di Poste, sempre che riescano entro il 2014. Ci sono società molto note, tra cui Segafredo, quella del caffè, l'OVS, chiaramente altro marchio molto conosciuto. E poi per restare alla musica? Blue Note all'AIM. Il Blue Note, ecco. Si quota? Sì, certo, all'AIM. Hai capito? Hai dobbiamo fare un'altra puntata nel corso dell'autunno, Nicoletta. Faremo una puntata tra e li invitiamo, canta, ma forse questi riescono addirittura a luglio, però la tempistica non è ancora definita. La prima invece all'AIM sarà Notorious Pictures, diritti cinematografici, che dovrebbe indicativamente andare il 23. cinema e musica, insomma, non ci facciamo mancare niente, ma soprattutto salutiamo, se non mi ricordo male, che è lui, Nick the Nightfly, giusto? Oh yes. Eccolo qua, quindi il grande, il titolare, diciamo, di questo locale molto molto famoso. Salutiamo la nostra Valeria, anche se è talmente, ci rende veramente piacevoli dei temi che non solo proprio a portata di allora, tutti. Se Valeria vuole rimanere, parliamo di gomme, cerotti, smettere di fumare, ma Valeria mi ha già detto, io non ho mai fumato. È vero. Però c'è chi magari ha fumato ed è riuscito a smettere. In linea con noi abbiamo Fausto che ci chiama da Ancona e Michele dalla provincia di Chieti, che forse ci raccontano proprio che cosa è successo a loro. Fausto, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno ai vostri ospiti. Grazie. Io ho fumato per 27 anni. Sì. E 40, dalle 40 alle 50 sigarette, per cui una cosa importante. Poi, parlando con un medico, mi ha detto che l'aspetto fisico, la reazione fisica erano solo 24 ore. Sì. E il resto era solo psicologico. Mi è venuto pensato, siccome faccio il rappresentante, per cui sono molto in strada, eccetera, di portarmi dietro una bottiglietta d'acqua, quando avevo voglia fumavo un sorso d'acqua. È proprio il caso di dire. Ho smesso. Sono 6 anni che non mi danno fastidio i fumatori, anzi, per cui tranquillo e pacifico. Vede, Fausto, in linea con noi, ha detto due cose molto belle, secondo me, Fausto. E quindi il medico che ha fatto con lui una comunicazione efficace è lui che si è messo di buzzo buono, come si dice, ci ha provato. In linea con noi abbiamo il nostro dottor antifumo, il nostro dottor Roberto Boffi, responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno, dottor Boffi. Buongiorno, Nicoletta, buongiorno ascoltatori. Un medico che ha parlato chiaro e ha convinto, senza terrorismo, il nostro Fausto d'Ancona a smettere. Sì, gli ha fatto scattare il click, questo. Faccio i complimenti prima di tutto a Fausto, al collega anche, devo dire però che gli è andata anche un po' bene, perché ha detto una cosa un po' ottimistica, cioè che la dipendenza a nicotina dura mediamente solo un giorno. Purtroppo nella maggior parte dei casi non è così, dura 2-3 mesi, anche se le prime settimane sono sicuramente quelle più a rischio. Però probabilmente lo conosceva, sapeva che era una persona con una dipendenza più psicologica che fisica, e quindi questo atteggiamento un po' di sminuire il rischio di star male smettendo di fumare su Fausto ha funzionato. Quindi l'importante però, come lei sottolinea tutte le volte che viene a trovarci, è provare a smettere. Questo sicuramente, provarci, non arrendersi davanti al primo tentativo e chiedere aiuto. Non necessariamente poi si deve ricorrere a dei farmaci, ma chiedere aiuto del personale competente, che può essere il medico di famiglia, può essere anche il tuo stesso farmacista, può essere il medico del centro antifumo. E ce ne sono tanti su tutto il territorio nazionale, noi abbiamo messo l'elenco come sempre nella pagina di Cuore Denari. Come si accede ad un centro antifumo? La donna di Denari chiederebbe, Deborah. Quanto costa? Devo dire che i servizi antifumo sono un po' variegati, in Italia non sono standardizzate le offerte di trattamento, però i centri antifumo migliori, diciamo, quelli che hanno più storia, sono ospedalieri, e il paziente vi accede con un semplice pagamento di un ticket e un'impegnativa fatta dal medico di famiglia, per cui è sicuramente un investimento. Diciamo che di fronte al beneficio questo è un investimento che va fatto e va meditato. Purtroppo in Italia, non so se poi ne parlerete o se ne avete già parlato, i farmaci antifumo non sono rimborsati dal sistema sanitario nazionale, mentre in paesi più evoluti, tipo l'Inghilterra, che investono più in prevenzione, questo accade. Però anche lì questo secondo me non può essere visto come un alibi, perché sia la visita che il trattamento farmacologico antifumo, quando necessario, è equiparabile alla spesa di un pacchetto di sigarette al giorno. Quindi siccome i farmaci comunque li prendi per 2-3 mesi al massimo, poi hai altri 9 mesi per avere un risparmio significativo già nel primo anno di disassuefazione. Allora, questo sarà il tema della seconda parte della trasmissione. Parleremo anche di questa ricerca che sottolinea i possibili rischi per la salute dei prodotti sostitutivi che contengono la nicotina, i cerotti, le gomme e anche le sigarette elettroniche. Cercheremo di capirne di più insieme al dottor Boffi, però nel frattempo continuate a fare, come a chiamare il nostro numero verde, diteci se avete smesso, se volete farlo, se avete o se state utilizzando questi prodotti. Come sempre cercheremo di vederci chiari con consigli pratici alla portata di tutti e dai nostri esperti. Cuore e denari. Eccoci qui, sono le 12:11, stiamo tornati insieme, vogliamo affrontare il tema che avevamo anticipato, e cioè parlare dei prodotti come cerotti, gomme, sigarette elettroniche che contengono nicotina, il dottor Boffi questa non me la passa, che contengono nicotina e che vengono usate da chi vuole smettere di fumare. Se le avete usate, se le state utilizzando, restate con noi, in linea con c'è il dottor Roberto Boffi, Debora da Roma. Dottor Boffi, entriamo subito nel tema, meglio nel problema. Che cosa dice questo studio? Beh, è uno studio genetico, quindi ormai non è di moda, ma è di più che di moda, cioè è importante il contributo della genetica nelle ricerche per la salute. Questi ricercatori americani del Virginia Bioinformatics Institute hanno pubblicato su una rivista scientifica che si chiama Oncotarget uno studio che ha dimostrato questo gran numero di variazioni genetiche causate dalla nicotina, e quindi hanno prospettato un ampio quadro di effetti genomici di questa sostanza. Per carità, io non amo la nicotina, in primis perché è una droga e quindi dà dipendenza, ma i danni della nicotina sono già tanti quelli che si conoscevano, e adesso c'è anche questa informazione in più, e se vuole poi parliamo. Quindi la morale di questo studio arriva un po' come una doccia fredda alle persone che stanno utilizzando sostitutivi? Allora, la morale di questo studio è che c'è un motivo di in più per cercare di utilizzare i prodotti a base di nicotina al dosaggio più basso possibile per il tempo minimo necessario. Però siccome non tutti i fumatori sono come il vostro radioascoltatore di prima, persone che hanno una dipendenza che scompare in un giorno, quindi prevalentemente psicologica, è fondamentale valutare il costo-beneficio, e quindi siccome la priorità è smettere di fumare e assumere la terapia nicotinica sia sotto forma di gomme e di cerotti sia sotto forma di vapore, quindi la sigaretta elettronica, non è fumare, è sicuramente infinitamente meno dannoso. Dottor Boffi, si parla di gomme, di cerotti, di sigarette elettroniche, prodotti che sono tra loro molto diversi per quanto riguarda non solo il contenuto di nicotina ma anche per il modo di somministrazione. Questo per dire che non si può fare di ogni erba un fascio. Ci sono delle differenze? I cerotti e le gomme fanno parte del normale prontuario farmaceutico consigliato dall'OMS, perché sono venuti in farmacia, non a caso, anche nelle farmacie ospedaliere, nell'istituto dei tumori abbiamo tutti i prodotti a base di nicotina anche per i pazienti ricoverati in istituto, quindi se li diamo ai pazienti oncologici vuol dire che non siamo degli incoscienti, quindi sappiamo sia noi che i chirurghi che i chemioterapisti cosa stiamo facendo. Però questo non vuol dire naturalmente che ci divertiamo a darli, e controlliamo anche magari le condizioni del paziente, in modo che l'assunzione non venga effettuata attraverso un tessuto che è già infiammato, perché la nicotina è notoriamente precancerogena, quindi può slatentizzare una predisposizione di una persona, che può essere alla pelle ad esempio, o alla bocca, allo stomaco nel caso delle gomme, alla pelle per i cerotti. La sigaretta elettronica, a parte che non è di provata ancora efficacia, ci sono pochi studi sulla capacità della sigaretta elettronica di fare veramente smettere di fumare a lungo termine, non è neanche nota la sua farmacocinetica, cioè quanto ne viene assorbita ogni puff, no? Ogni aspirata di questo vapore. Poi ci sono tante sigarette elettroniche, un mercato ancora molto selvaggio, poco normato, molte si comprano su internet, e alcune di queste vengono veramente assorbite in maniera importante le quantità di nicotina contenute nella cartuccia, e quindi oltre che dare più dipendenza possono dare anche più danni. 800 24 0024, chiamateci per raccontarci se avete smesso, se volete smettere e se ce l'avete fatta, se ce l'avete fatta da soli, spegnendola dall'oggi al domani, da un minuto all'altro, oppure avete avuto bisogno di farmaci, perché adesso stiamo parlando di prodotti a base di nicotina, ma ci sono anche dei farmaci che vengono prescritti per aiutare il fumatore a smettere. Deborah. Sì, direi di cominciare a sentire i nostri ascoltatori. Stavo curiosando fra chi ci ha chiamato, perché ho capito che il tema di oggi attira particolarmente la lettera G, perché abbiamo Gabriella, Gianmaria e Giuliano, per cui direi che come sempre in un'ottica di cavalleria Gianmaria e Giuliano appunto lasceranno il posto a Gabriella per il primo intervento di oggi, anzi no, il secondo per la verità, perché un altro abbiamo sentito nella prima parte. Gabriella, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, la mia storia è questa. 4 anni fa ho fatto un fioretto, cioè qualcosa di importante a cui io tenevo molto. E il fioretto era smettere di fumare. Sì. Io ho fumato da ragazza ininterrottamente, avevo 60 anni quando ho fatto questo fioretto. Dunque mi sono data 40 giorni di tempo e ho dato una data precisa, sì, per spegnere l'ultima sigaretta. In quei giorni ho fumato tutto l'impossibile. Proprio sei sfogata, come si dice. Sì, mi sono proprio intossicata. E al 40esimo un po' come quelli giorno, che devono iniziare la dieta, no? Che magari così, la settimana prima si abbuffano di ogni cosa. Sì, sì, okay, proprio così. E, ho spento la sigaretta. È stato molto molto forte come sensazione. Ma quello che mi ha aiutato tantissimo era, vabbè, in primo luogo la motivazione. Sì. Che avevo scelto, deciso di smettere. E in secondo luogo mi facevo la sera delle tazzone di camomilla, ma proprio di fiori, dei pugni di fiori infusi, super concentrata, e poi un po' di valeriana per placare quello stato di tensione. Avevo anche prenotato un aiuto presso un centro ospedaliero. Sì, ma non ce n'è stato bisogno. No, perché quando mi hanno chiamato, lei ormai aveva... erano passati un paio di mesi e io avevo già smesso. Gabriella, il mio rapporto con il fumo. Sì. No, che la chiamata non è con il fumo è un rapporto affettivo. Non ho più dato neanche un tiro, sì, a una sigaretta, ma non mi dà nessun fastidio se qualcuno fuma vicino. Non le viene voglia e non le dà fastidio. Ogni tanto sì, diciamo, mi viene voglia come pensiero. Sì. Però lo allontano perché so. Sa che Gabriella, il dottor Boffi mi aveva raccontato che ci sono degli ex fumatori, sì, che nel sogno sognano di fumare. Allora, Deborah, Gabriella veramente ci ha fatto l'intervento di Gabriella e dà al dottor Boffi punti numerosi, come si dice. La prima è la motivazione, l'abbiamo già detto, che ci deve essere una motivazione forte a smettere. La nostra ascoltatrice ha adottato un metodo che viene anche consigliato, che è quel metodo che è la riduzione mirata alla cessazione, in fondo, stabilire una data. Entro quella data, ce la racconta poi il dottor Boffi. C'è anche lo spunto che ci ha dato, è quello dell'idratazione, perché nicotina e acqua hanno una relazione, vero dottor Boffi? Assolutamente. E Deborah non se l'è fatta certo mancare. Deborah, tu hai detto subito, quando il centro antifumo, esatto, non ha richiamato subito la donna di denari, è scattata subito sull'attenti, perché pensavo che di fronte ad una richiesta di questo tipo ci fosse grande disponibilità, ma io sono sempre un po' Alice nel Paese delle Meraviglie e immagino sempre che il mondo funzioni secondo quello che penso io. Invece, dottore, non è così, quindi ci sono anche delle liste d'attesa per questo. Allora, cominciamo per ordine. Ah, sì, hai ragione. Allora, o dalla lista d'attesa o all'acqua o viceversa. Io comincerei dalla lista d'attesa, perché per natura sono iper autocritico e quindi è una storia, come avete detto voi, che ha tante belle cose, però di una persona che ha dovuto fare da sola. Invece io quello che ho cercato in questi 15 anni, io e il mio gruppo, l'Istituto Nazionale Tumori, di spezzare questa maledetta solitudine del fumatore. L'85% dei fumatori smette da solo, ma per disperazione, non per scelta. E per una persona come la vostra radioascoltatrice che ce l'ha fatta, la maggior parte non ce la fa. È vero che dopo 2 mesi comunque doveva andare, perché ex fumatore lo si diventa 1 anno e quindi un centro antifumo ti accoglie anche dopo 2 mesi che hai smesso, però 2 mesi non sono accettabili, sono d'accordo con voi. Non è una polmonite, non è un infarto, ma era una richiesta urgente da esaudire almeno entro il primo mese. Quindi noi abbiamo dei rimbrotti dalla regione se non facciamo la prima visita, per qualunque motivo, compreso la disossificazione al fumo, entro 1 mese. Questo è vero e quindi... Perché come si dice bisogna anche cogliere l'attimo. Assolutamente, il rischio della ricaduta per sfinimento, per gli effetti collaterali, poteva assolutamente essere azzerato con un supporto adeguato. Invece la signora ha dovuto fare da sola, ce l'ha fatta, ha stabilito una data, questo è fondamentale, anche al centro antifumo si consiglia questo. Quando il paziente non se la sente di smettere di botto, si fa una data graduale, come diceva lei, con una riduzione entro drastica, però almeno il 50% del numero di sigarette giornaliere entro 6 settimane, e poi una data per una cessazione definitiva, totale. Quindi la riduzione deve essere sempre mirata alla cessazione. In queste 6 settimane si possono alternare le sigarette residue con i prodotti a base di nicotina, quindi ecco perché li difendo, non perché difendo i prodotti in sé, perché che la nicotina sia dannosa ad esempio anche a livello cardiovascolare o neurologico lo sappiamo da tempo, e se un paziente è iperteso è inutile che naturalmente che prenda il farmaco per la pressione se si riempie di gomme o di cerotti a nicotina. Però comunque, se per un certo periodo, qualche settimana, qualche mese al massimo, ci si aiuta con questi prodotti, sicuramente il costo-beneficio è a favore dell'uso in certi tipi di pazienti, i fumatori più accaniti che hanno una dipendenza anche fisica. E poi ci sono le erbe, un'altra cosa interessante, ha parlato di valeriana. Siccome non solo si può diventare dipendenti, si diventa quasi sempre quando si fuma dalla sigaretta, ma si può anche diventare dipendenti dai prodotti a base di nicotina, in particolare dalle gomme e dagli inalatori, per non parlare delle sigarette elettroniche, mentre con i cerotti non sono praticamente riportati di casi di abuso e di dipendenza. In questo caso all'Istituto dei Tumori da anni si usano prodotti a base di erbe, dei fitocomplessi come prodotti a base di iperico, passiflora e valeriana, di cui parlava la vostra radioascoltatrice, che simulano un po' la liberazione di dopamina e di adrenalina dovuta alla nicotina, e quindi fanno in modo che uno non risenta della mancanza anche dei prodotti a base di nicotina. Ma per chi volesse può utilizzare questo fitocomplesso, sì, composto, anche se non usa i prodotti a base di nicotina, ma fa come la nostra ascoltatrice, come chiede anche Michele da Martignano, cioè diminuisce giorno per giorno le sigarette? Io consiglio sempre, siccome alle erbe credo, ma credo anche nella loro potenziale tossicità, per cui non stiamo parlando di omeopatia, con tutto il rispetto di omeopatia, ma di fitoterapia, consiglio sempre di farlo sotto controllo medico, meglio ancora medico, almeno del farmacista, perché comunque l'iperico ad esempio è fotosensibilizzante, per cui non ti puoi mettere al sole nelle ore più calde, adesso stiamo andando verso l'estate, per dire, per cui l'uso di questo prodotto me l'ha convinto anche la lettura degli effetti delle controindicazioni e effetti collaterali. Quindi non esiste nessun farmaco, anche naturale, che non abbia qualche rischio, no? Però sicuramente sono prodotti di provata efficacia e possono essere utilizzati meglio se con il consiglio, con il supporto di personale qualificato. Deborah, abbiamo lasciato lì i nostri 2 cavalieri. Esatto, chissà come ha fatto a smettere, lo racconta Gianmaria da Genova 16 anni fa. Gianmaria, buongiorno. Qual è lo stratagemma che ha utilizzato? Sì, eccoci. Allora, io la mia esperienza è che ho smesso praticamente in modo drastico da un giorno all'altro. Io adesso ho 51 anni, ne avevo 35, quindi fumavo più o meno dall'età di 15 anni, quindi dopo una ventina d'anni. E ho smesso drasticamente non ho voluto assumere nulla, quindi non neanche allora c'erano molto meno prodotti di oggi in commercio. Però ce l'ha fatta da sola, da solo. Ce l'ho fatta da solo e con tanta forza di volontà. Credo che si scopri l'ex fumatore, credo che se ci riesce scopre un mondo nuovo, meraviglioso, a partire dai sapori, a partire dalla Si riscopre un po' un'altra vita, vero Gianmaria? Ecco, si riscopre un'altra vita e poi comunque secondo me tanta forza di volontà. Ecco, però Gianmaria, mi scusi, perché abbiamo un minutino di tempo e vorrei dare la possibilità al dottor Boffi di raccontare una cosa importante, perché ci sono delle persone che non riescono a smettere, non perché sono deboli, non hanno forza di volontà, non è una questione di carattere, c'è una predisposizione genetica a essere più sensibile agli effetti della nicotina e quindi noi fa più fatica a smettere. Un dottor Tamburini che aveva scritto un bellissimo libro che si chiamava Malati di rischio. A me non piace creare con i prelievi, con i test genetici, malati di rischio, però sapere che si è più o meno predisposti a far fatica a smettere di fumare è un'informazione utile per noi e naturalmente per il medico del centro antifumo. Quindi noi con un semplice prelievo del sangue ormai da un anno individuiamo se la persona ha una maggiore predisposizione o meno a livello dei recettori dei geni della nicotina e quindi personalizziamo il più possibile la terapia antifumo, sia psicologica che farmacologica, perché non tutti purtroppo riescono a smettere facilmente come i radioascoltatori che abbiamo sentito che oggi. Che però non sia una giustificazione, Nicoletta. Assolutamente. Ecco. Assolutamente, però è meglio saperlo. Se dopo tanti tentativi e ce ne si... la persona non riesce a smettere, si può vederci più chiaro e quindi un esame del sangue permette di farlo. Io credo che sia giusto informare gli ascoltatori che c'è anche questa possibilità. Ma Deborina, noi dobbiamo salutarci. Esatto, io domani non ci sono e ti lascio ancora sola, ma riprendo il testimone venerdì. Grazie al dottor Boffi, a Carmelo Lauricella, a Marco Lombardo, Laura Vanossi, Marco, a voi tutti. Abbiamo qua Valerio e Alessandro, i tecnici di Roma che mi hanno gestito. Bene, grazie. Noi tra l'altro io mi sento con gli ascoltatori questa sera anche per Focus Economia. Buona giornata. Cuore e denari.